Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis e soprattutto buon Natale. 25 anni fa prendeva il via una delle vicende più controverse e imbarazzanti nella storia recente della scienza, che ancora non si può considerare conclusa. Era il 1989 quando Martin Fleischmann e Stanley Pons, allora due stimati elettrochimici, annunciarono con un articolo sul Washington Post di essere riusciti a ottenere delle reazioni di fusione nucleare a temperatura ambiente all'interno di una particolare cella elettrochimica. Bisogna sapere che molti metalli sono in grado di ospitare all'interno del proprio reticolo cristallino grandi quantitativi di gas. Nell'esperimento un elettrodo di palladio, un metallo appunto, veniva saturato di deuterio, cioè idrogeno pesante, e poi riscaldato. Secondo i due scienziati, in queste condizioni si avviava un processo che generava elio, giustificabile solo con delle reazioni di fusione nucleare, una fusione fredda. L'annuncio era a dir poco clamoroso, non solo perché prometteva l'accesso a una fonte di energia pulita e illimitata, ma anche perché non era in alcun modo giustificabile sulla base delle conoscenze di fisica dell'epoca, né attuali peraltro. La comunità scientifica si mise subito al lavoro, ma l'eccitazione iniziale si trasformò rapidamente in perplessità, infine in delusione e irritazione quando iniziarono a piovere le smentite sperimentali. In pochi mesi si passò dalle celebrazioni trionfali alle accuse di truffa e la fusione fredda fu bollata come scienza patologica. Non tutti però ebbero solo riscontri sperimentali negativi e così una piccola comunità di scienziati, pur nello scetticismo generale, è andata avanti a condurre ricerche sulla fusione fredda. Ricerche che vanno avanti ancora oggi, mentre il termine fusione fredda è stato più o meno abbandonato e sostituito da uno più neutro, LENR, Low Energy Nuclear Reaction, ovvero reazioni nucleari a bassa energia. Ebbene, negli ultimi anni, soprattutto a partire dal 2008-2009, grazie ad alcuni nuovi esperimenti scientifici e complici anche gli annunci di alcuni gruppi privati che sarebbero pronti addirittura a commercializzare apparati a fusione fredda, il dibattito su questo tema ha riacquistato attualità. Quello che cercheremo di fare in questo speciale Smart City è quindi un tentativo di capire a che punto sia il dibattito su questa materia così controversa, ma anche così importante, date le enormi ricadute pratiche che potrebbe avere, per quanto del tutto ipotetiche, allo stato attuale. Lo facciamo con due interviste a Stefano Bagnasco e Francesco Celani, entrambi fisici dell'INFN, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ma su posizioni opposte per quanto concerne l'ELENRA. Iniziamo con Francesco Celani, sentiamo. Celani, lei è vicepresidente della Società Internazionale di Scienze Nucleari della Materia Condensata, che raccoglie gli studiosi dell'ELENR un po' di tutto il mondo. Allora, le chiedo come prima cosa, quante persone appunto nel mondo oggi come oggi si dedicano alle ricerche sulla fusione fredda e a tutto quanto gli sta intorno? Allora, dal punto di vista puramente burocratico, il numero di iscritti alla Società Internazionale, che annovera anche dei premi Nobel, è oltre 250. Di fatto le persone che realmente lavorano in questo argomento superano il migliaio. Molta gente preferisce lavorare e non essere pubblica per svariati motivi. Che poi magari cerchiamo anche di capire un po' meglio. Ecco, quanti di questi sono comunque inquadrati nella comunità scientifica e ne seguono i metodi, passano per le riviste peer review, eccetera, eccetera? Ma praticamente tutti. Cioè, è l'eccezione se qualcuno fa di testa propria e non si attiene al regolamento. Eppure uno degli aspetti più contestati è proprio l'abuso, diciamo, di pubblicazioni non peer review. C'è tantissimo materiale, oggettivamente c'è anche molto materiale scadente se uno va a cercare. C'è, come in ogni vicenda umana, del materiale eccezionale e materiale meno buono o anche di cattiva qualità. Ma quello fa parte purtroppo della distribuzione gaussiana degli eventi. Ecco, dal suo punto di vista, quali sono le pubblicazioni, peer review in particolare, più importanti per questo settore di ricerca? Insomma, se dovesse citarmi due o tre lavori fondamentali da cui si deduce, secondo lei, che il fenomeno è dimostrato con certezza? Il più famoso, il lavoro di Armin Juk e poi il Tecnico di Berlino, il 2008, è iniziato nel 2001 a fare questi esperimenti con gli acceleratori, quindi fisica convenzionale, okay. Tutti accettano, fisica del WC, 20 pagine, utilizzano gli acceleratori di particelle a bassa energia per dimostrare che esiste un anomalo aumento delle capacità di schermatura degli elettroni in certi materiali in condizioni speciali, praticamente le condizioni della fusione fredda. Poi il professor Yoshiaki Arata, uno dei premio madri, imperiale del Giappone, premio imperiale più prestigioso riconoscimento giapponese, sì, giapponese. Lui è considerato una specie di eroe in patria, no? Un lavoro che possiamo citare? Ma il lavoro del 2007-2008 ha dimostrato in maniera inequivocabile e anche in pubblico che utilizzando nanoparticelle di palladio e immettendo deuterio, una parte di questo deuterio si trasforma in elio 4. Quindi stessa combinazione di elementi delle ricerche, sì, di Fleischmann e Pons. Perfetto. Sì, poi similare, ma ad alta temperatura in sistema gassoso. Poi esperimento di Iwamura da Mitsubishi è riuscito a dimostrare la trasmutazione del cesio in praseodimio, dello stronzio in molibdeno, del tungsteno in platino. Insomma, trasmutazioni ottenute a temperature di 70-80 gradi e flusso di deuterio, quindi è tutta una casistica, un insieme di esperimenti che vanno in una certa direzione. E poi insomma, in realtà ci sono anche altri esperimenti in Italia, è noto la storia del rapporto 41, che per esempio non è mai stato smentito neanche quello, no? Eh sì, quello è doveroso, il rapporto 41 è un esperimento basato su una intuizione del professor compianto Giuliano Preparata. L'esperimento estremamente delicato è stato riprodotto all'Enea di Frascati. Poi la sua pubblicità ha avuto alterni. Sì, insomma, e poi ci sono state tutte le vicende. Però lei dice anche quello lì, al di là diciamo delle polemiche orali, mai smentito. Ecco, senta, secondo i fusionisti, ecco, mi lasci usare questa definizione, particolare negli ultimi anni ci sono stati molti passi avanti nella comprensione di questo fenomeno. Lei ha citato molti articoli di pochi anni fa. Che cosa si è capito rispetto alle condizioni che lo rendono possibile? Quali sono, diciamo, le conclusioni, le acquisizioni più importanti degli ultimi anni? Allora, intanto le conclusioni sono frutto di 20 anni di lavoro abbondante. Quindi sembra che la strada chiave sia avere materiale nanometrico. Se non si hanno strutture nanometriche non si tiene nulla. Il palladio, per motivi suoi metallurgici, spontaneamente diventa nanometrico. Quindi un ingrediente è ci vogliono delle strutture nanometriche. Poi ci vuole un gas opportuno, nel caso del palladio il deuterio, nel caso del nichel l'idrogeno, insomma dei gas opportuni che riescono a entrare all'interno della matrice metallica. Bevono proprio come se fosse una spugna piena d'acqua, questi metalli si riempiono di gas, no? E tra virgolette. Tutto ci vuole un valore di soglia critica del rapporto deuterio su palladio, per cui i fenomeni possono avvenire, non devono, possono, se c'è un flusso adeguato di deuterio all'interno e c'è un non equilibrio. Più il non equilibrio è forte, più il fenomeno è forte. Quindi ci sono quattro condizioni cruciali: presenza di nanostrutture, metalli con queste strutture nano, il superamento di questa soglia di concentrazione all'interno dei metalli, dell'idrogeno, del deuterio secondo i casi, il non equilibrio, cioè ci deve essere un flusso di questo gas, e infine naturalmente i materiali che devono avere delle caratteristiche specifiche. Ciò detto, che cosa ci può dire dei primi esperimenti sulla fusione fredda a fine anni 80, inizio anni 90 e della loro coerenza con questi parametri che mi sembra di capire avete individuato solo successivamente? Il punto è proprio questo, i parametri li abbiamo scoperti dopo, quindi la maggior parte degli esperimenti fatti nei primi anni erano fatti non in maniera corretta, ma non perché i ricercatori non fossero bravi, ma non conoscevano i parametri importanti. Per dare un esempio, su 100 esperimenti effettuati, 99 non servivano a niente, sono stati utili a chi ha continuato per capire che quella strada era sbagliata, ma di per sé non valevano niente. Ci sono vari tentativi oggi di dare una cornice teorica all'ELENRA, tante idee molto diverse tra loro, vero? Oltre 151, ho contato 151 modelli teorici. Che è come non averne neanche uno, no? Neanche uno, è chiaro. Vabbè. Dunque Celani, qual è il rapporto tra gli esponenti di questa corrente di pensiero, chiamiamoli fusionisti, e il resto della comunità dei fisici nucleari? Ma è un rapporto un po' conflittuale. c'è un fatto da tenere presente. La fusione fredda in teoria non può esistere, perché cozza con quasi tutto quello che conosciamo. Fatta qualche debita eccezione, non si accetta più il salto conoscitivo. Sappiamo quasi tutto, per cui quel po' che si può aggiungere è pochissimo. Chi si occupa di questo campo di ricerca trova appoggio da parte delle istituzioni all'interno delle quali lavora o trova, trova abbastanza difficoltà? Escluso casi particolari tipo il Giappone. Se uno per esempio non arriva sulle riviste peer review, diventa difficile che si innesca anche tutto il meccanismo. Allora le chiedo, qual è il vostro rapporto con queste riviste? Il rapporto è altalenante. Alcune volte gli articoli passano sulle migliori riviste tipo Physica Review, come l'ho citato prima. Altre volte, se per caso l'editore ha il semplice sospetto che sia legato il lavoro alla fusione fredda, viene bloccato di principio. Questo lavoro non ci interessa, per cui la cosa si ferma lì. E è un peccato. Lei che giustificazione dà a questa situazione? Ma allora, ci sono stati indubbiamente degli errori di gestione dell'informazione da parte dei cosiddetti fusionisti freddi. Il fatto che il fenomeno non è riproducibile, per cui ogni tanto, per motivi più o meno incontrollati, fortunosi, funziona, uno preso dall'entusiasmo pubblica, poi prova a riprodurlo e non ci riesce. Anche adesso è così? Anche nostra, ovviamente. Adesso, da quando uno utilizza materiali nanometrici, la riprodutività sta riguadagnando gradini. Quindi è tutta colpa vostra? Non tutta colpa nostra, perché in tantissimi altri campi di ricerca che non hanno interazione con il mondo reale, sbaglio o non sbaglio, non conta niente. Teoria delle stringhe, tanto per dirne una, no? Sono settori di ricerca considerati appunto molto seri. Ricerca, se funziona bene, può cambiare gli equilibri del potere mondiale e quindi è guardata sotto una legge di ingrandimento a volte eccessiva. Il fatto che la vicenda sia stata gestita malissimo all'inizio, soprattutto dagli stessi Flashman e Points, gettando un'ombra molto molto oscura su tutto questo, non crede che c'entri? Ma diciamo, l'inizio estremamente caotico indubbiamente ha avuto un peso, però l'altro punto chiave è che gli esperimenti erano pochissimo riproducibili. Lì per lì non sembrava questo, nessuno si era accorto che gli esperimenti dipendevano dalla tipologia, dalla struttura metallurgica del palladio. Sembrava una follia, soltanto pensarlo. Eccoci di nuovo in studio, Maurizio Melis al microfono, per continuare a parlare di fusione fredda, o come si preferisce dire oggi, di LENR, reazioni nucleari a bassa energia, cercando di fare il punto su questa vicenda molto controversa e mai del tutto chiusa a ormai 25 anni dal suo inizio. Abbiamo sentito nella prima parte l'opinione di Francesco Celani, fisico dell'INFN e studioso di questa materia. Sentiamo ora il punto di vista di Stefano Bagnasco, anche lui fisico dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, esperto di calcolo scientifico che collabora col CERN e rappresentante del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, al quale ho chiesto anzitutto cosa renda così indigeribile per un fisico nucleare la cosiddetta fusione fredda, o LENR che dir si voglia. Sentiamo. Intanto che sono fenomeni che avvengono in un quadro teorico che non è per niente chiaro, che sembra una sciocchezza, ma in realtà se questi avvengono al di fuori di tutte le cose che si conoscono, vuol dire che c'è un buco grosso nella fisica come la conosciamo. Le reazioni nucleari avvengono sostanzialmente sempre, salvo rarissime eccezioni, con abbondanti produzioni di radiazioni, che in queste circostanze sono invece sempre, quasi sempre molto scarse. Quindi è abbastanza strano che ci siano fenomeni così in contrasto con le conoscenze che abbiamo, che vuol dire che appunto le conoscenze che abbiamo sono in qualche forma sbagliate e che però sono così sfuggenti. Poi può venire fuori il fenomeno strano, del tutto imprevisto, che cambia le carte in tavola e ci costringe a guardare in un'altra direzione. Ora, a me, insomma, alla stragrande maggioranza della comunità scientifica, pare che l'esistenza di questo fenomeno non sia ancora dimostrata in maniera sufficientemente convincente per dedicarci una grande quantità di energie. Ora, Attenzione che non è vero che la comunità scientifica se ne frega completamente di queste cose. E diversi gruppi dell'INFN hanno lavorato alla replicazione dei risultati di Fleischmann e Pons con scarso successo. Questo è un po' sempre il problema di questi esperimenti. Un po' il fatto che non esce da tutti gli studi che vengono pubblicati, non esce un quadro coerente, dire va bene, si capisce che c'è un fenomeno di questo tipo. Uno trova una cosa, uno ne trova un'altra, uno ne trova una terza ancora incompatibile con le altre due, e quasi sempre ci sono dei grossi problemi di replicabilità. Sì, tra l'altro questi sono tutti punti che vengono fuori dichiaratamente, diciamo, anche nell'intervista con Celani. Ecco, quello su cui non c'è direi il minimo accordo invece è il fatto che dal punto di vista degli studiosi delle LENR, invece, soprattutto a partire dal 2000, si sono accumulate evidenze sufficienti da considerare le LENR un fatto acquisito, questo dicono. E oggettivamente, qualche articolo, qualche pubblicazione con tutti i crismi delle peer review, penso ai lavori di Yoshi Arata del 2008-2009, che non risulta siano mai stati smentiti, pare che ci siano. Arata è considerato uno dei più grandi fisici giapponesi. Sì, questo non è impossibile. Il problema è di nuovo che tutto l'insieme da un lato non forma, un quadro chiaro. L'altro lato, appunto, come dicevo, è la replicabilità, cioè non basta che non sia stato smentito uno studio, bisogna che venga replicato con tecniche possibilmente differenti, ottengono lo stesso. Ecco, ma allora invece di fare tutta questa opposizione orale, non sarebbe il caso di rifare questi esperimenti e falsificarli e dimostrare che Arata aveva torto, che magari era inquinato, cioè ha sbagliato qualcosa? In linea di principio certo che sarebbe il caso di replicarlo. Il problema della ricerca in fisica, come di tutta la ricerca scientifica, è che ci troviamo in un regime di risorse limitate, quindi uno deve andare in direzioni dove è, non dico ragionevolmente sicuro, ma insomma dove ci sia qualche probabilità di avere un risultato. Allora, la cosa curiosa è che in realtà questi sistemi di metalli... Anche perché costano poco, peraltro, no, questi esperimenti. Sì, costano poco, ma la storia non ci aiuta, perché un sacco di volte queste cose sono state rifatte, adesso non nello specifico di quegli esperimenti lì di Arata, però un sacco di volte si è tentato di replicare gli esperimenti con scarso successo. Una cosa curiosa che si vede è una cosa che noi nel CICAP chiamiamo effetto Piero Angela, e cioè il fatto che più la qualità degli esperimenti migliora, meno effetti si trovano. E questa è una cosa sistematica in questo tipo di studi. Questo vorrebbe dire, paradossalmente vorrebbe dire... Sì, su questo c'è proprio una, c'è proprio una divisione netta, nel senso, chi si occupa di queste materie dice negli ultimi anni ci sono stati dei progressi significativi. Ecco, ma la comunità scientifica, secondo lei, è serena in generale nel giudicare tutta questa vicenda? Cioè, insomma, chi lavora in quel settore lamenta, e ci sono anche dei casi giornalisticamente abbastanza ben appurati, diciamo, lamenta un po' ostruzionismo, di grande difficoltà a pubblicare su peer review, anche quando nel merito non vengono sollevate critiche, cioè nessuno gli critica niente, però gli dicono no, però noi non lo pubblichiamo. Ecco, la comunità scientifica, è anche considerando quanto è stato traumatico, io penso, no, nell'89 tutta la vicenda, è serena? Non è impossibile che ci sia un certo eccesso di ritegno in queste cose. Ci sono, diciamo così, due fattori. Un fattore è, come diceva lei, il fatto che la comunità scientifica è stata profondamente scottata da quella vicenda. Si è arrivati addirittura in Italia a querele, querele tra gli scienziati e i giornalisti, a sgradevolezze di ogni genere. E questa grossa scottatura, diciamo così, della comunità scientifica ha trasformato un po' quell'argomento lì in un argomento tabù, quello che alle volte viene chiamato un argomento distruggi carriera. Uno studente che si mettesse a fare la tesi in quell'argomento lì correrebbe dei rischi. E questo probabilmente è un po' un effetto che prima o poi passerà. Non bisogna confonderlo con necessario conservatorismo nella valutazione dei risultati. Quando una rivista decide di pubblicare o meno un articolo in base alla sua qualità, al possibile impatto, al parere dei reviewer, deve bilanciarsi tra due estremi. Da un lato bisogna essere conservativi, perché altrimenti io inquino vale la letteratura scientifica con un sacco di risultati incerti, scadenti, e dall'altro devo fare attenzione a non pubblicare soltanto risultati che sono nel mainstream e sono assolutamente scontati, perché altrimenti rischio veramente di soffocare le idee nuove. E un famoso articolo, una famosa lettera di un certo numero di scienziati sul Guardian, proprio della fine dell'anno scorso, in cui loro chiedevano: vogliamo più scientific mavericks, degli scienziati scavezzacollo e indisciplinati, sì, sì, che questo aspetto è ben chiaro al mondo scientifico, nessuno si nasconde che c'è questo problema. E quindi, bilanciando queste cose, questi argomenti qui, può darsi che stiano ricevendo un trattamento forse un po' troppo rigoroso rispetto a quello che meritano, o forse no. Ecco, il sistema in generale funziona, quindi si tratta semplicemente di avere pazienza, ci sono dei risultati, questi a un certo punto verranno fuori, io ne sono convinto. Guardi, le racconto un aneddoto di pochi giorni fa. Allora, lo scorso 12 novembre Bill Gates è stato all'Enea di Frascati. È andato a visitare il laboratorio di Vittorio Violante, che da anni studia l'Elenra. Violante gli ha tenuto una lecture, cioè un seminario sul tema. Esce il comunicato stampa dell'Enea su questa visita, a cui viene dato un certo rilievo. Nel testo sono 6.000 battute, 2,5 pagine, si elencano tutte le possibili competenze dell'Enea sulla fisica nucleare, ITER, mica ITER, ma non c'è neanche un riferimento né alle ricerche di Violante né all'Elenra. Eppure Bill Gates è stato lì a fare solo quello, a seguire questa lecture. Nelle note c'è un riferimento bibliografico, tra tanti. Ecco, non è che alla fine... davvero la comunità scientifica è un po' isterica su questo tema, e alla fine questo è il motivo di fondo per cui non si arriva ad una conclusione. E diciamo, il fatto di non arrivare a una conclusione è forse alla fine questo che alimenta o rischia di alimentare anche le truffe, perché è chiaro che finché la roba resta appesa c'è spazio anche per le truffe. Diciamo così, la comunità scientifica è spesso lenta a muoversi e a prendere le sue decisioni. Il consenso in questo momento è che chi si occupa di reazioni nucleari a bassa energia non abbia ancora dimostrato il suo punto. Su questo non mi stupisce per niente che si sovrappongano delle rigidità forse un po' eccessive, che però non sono dovute tanto, secondo me, al fatto che la comunità scientifica è chiusa a queste cose, quanto che questo, proprio anche per il fatto che ci sono intorno una serie di imbroglioni, di stranezze, di tentativi di sfruttamento commerciale di questa cosa, prematuri, eccetera, quel campo lì si è guadagnato purtroppo la patente di scienza patologica, per dirla nel migliore, sì, dei modi. Certo. Stiamo vedendo tutti le conseguenze di una faccenda partita male, esplosa peggio, e che ha creato non pochi imbarazzi alla comunità scientifica. Possiamo quantomeno considerarla una vicenda chiusa male o ancora un pochettino aperta? Diciamo così, non si è mai formalmente conclusa, si è andata a esaurire per stanchezza o per non con una specie di controprova, di rituale, no? Catartico e controprova che permettesse a tutti di mettersi il cuore in pace. Che dire in conclusione? È chiaro che siamo davanti a un quadro molto complesso, è una vicenda che non può essere risolta se non all'interno della stessa comunità scientifica coi suoi metodi. Ed è tuttavia importante che questo avvenga, possibilmente prima dei prossimi 25 anni. Infatti la posta in gioco è altissima, e poiché per quanto poco probabile l'esistenza di questi fenomeni ad oggi, non può essere esclusa il semplice fatto che si lasci intentata o non si percorra fino in fondo questa strada, finisce per dare adito ai complottismi. È la lobby del petrolio, sono i fisici della fusione nucleare calda che hanno paura di perdere il lavoro, e per lasciare anche spazio a speculatori e truffatori vari che tanto indispettiscono gli scienziati e i ricercatori, ma che come dire, trovano il loro ambiente ideale in queste situazioni indeterminate. Soprattutto poi, se a questo quadro si aggiungono maldestri tentativi di salvaguardare la propria reputazione o quella dell'istituto di appartenenza attraverso rifiuti ed omissioni che, insomma, sanno un po' di censura, di cui ci sono peraltro molti esempi in tutto il mondo. Per fortuna però ci sono segnali che tra fusionisti e il resto della comunità dei fisici nucleari stia perlomeno riprendendo il dialogo. Per esempio, molta sorpresa c'è stata di recente quando il capo della ricerca dei Langley Laboratories della NASA, Dennis Bushnell, ha rilasciato dichiarazioni molto ottimistiche sull'Elenra, ma in generale, insomma, si registrano delle timide aperture al dialogo da parte di vari enti scientifici. Insomma, la speranza che una vicenda dolorosa ma anche affascinante e alla fine senz'altro molto istruttiva per tutta la comunità scientifica possa finalmente concludersi è una speranza che possiamo coltivare. Ci fermiamo qui, ancora a voi tutti buon Natale, un saluto da Maurizio Melis.